una modulazione da omologato, non vanno di più, non è come il Superstar, capito? Vai Franco. Sì, c'hai ragione Marco, perché staccato c'hai una bella modulazione, bella piena, non c'è niente da discutere. Come hai agganciato, ha cominciato a abbassarsi la radio. Prima si è è diventata più comprensibile, più chiara, però bassa. Poi è di nuovo attaccato e si è abbassato del tutto. Eia, però una curiosità, lì in distanza, come sei tu, è ancora capibile o è troppo bassa? Perché qua c'ho il mic originale e la piedinatura è diversa e non ho mai microfoni pronti per questo apparato. No, anche se sia a distanza si abbassa la radio, di un bel. Eia, allora guarda, lo rimetto come era prima, quindi 90, 50, 9 watt, presumo modulati, non lo so perché lo strumento l'ho tolto, però qua guarda quanto guadagna il radio, è un bijou così. Sì, guadagna un bel radio con 9 watt, no, va bene, ma come mai la radio, che tipo di radio è? Allora, questo è un vecchio LMS 200, è un baracchino che avrà dai 40 ai 45 anni, dipende dall'anno di produzione. Io non so se i finali siano originali, se il tempo un po' l'abbia imbastardito tra virgolette, però devo usare la bassa potenza. Bassa potenza, sai quante sono? 200 mW di portante a muta, sono 500 mW modulati. Io cosa faccio? Io lo metto a 200 mW, però con linea retto, e mi dà 9 watt, presumo modulati, dai, ecco. Quindi adesso sono con i 200 mW dell'apparato di portante a muta, però la scarpetta. E quindi tengo sia la modulazione buona e sia però non troppi pochi watt. Riprendi fra, poi rilanciamo per Antonello. Capo, sì. Aspetta, sì, io tua la conosco, eppure è una buona radio quella, non è, anche se vecchio, è una bella radio, non dovrebbe abbassarsi così di modulazione. Sì, lo fa anche senza scarpetta. E non lo so, poi sai cos'è, l'apparato avendo 40 anni non si sa che cosa possono aver fatto dentro, se i finali sono stati sostituiti. Qua c'è una modifica già di Roger Beep, quindi non è proprio intonso di fabbrica. Io faccio così e metto il Beep originale dell'LMS 200, eccolo qua. Capo, sì. Ok, dai, avanti Antonello, che io poi chiudo perché devo fare cose, sono salito qua perché sto facendo cosa, e se no non faccio neanche questo stasera. Avanti Antonello. Magari l'ha chiamato Simona. Beh, spero che rientri, io mi devo fare la barba dalle 9, che sono un bello barbuto, devo anche cenare, va? E quindi fra, non so se ti trattieni con Antonello, se no dai, ritieniti salutato e ci sentiamo quando capita. Ok. No, mi trattengo perché sto facendo cosa? C'ho il saldatore acceso e sto facendo un lavoretto non in una radio baracchino, in un'altra cosa sto facendo un lavoretto e se no non riesco a finirlo. Ok, dai, io ti saluto, mi ha fatto piacere sentirvi. Io quando vi ho sentito, almeno a salutare entro, è più che altro. Ok, ciao Marco, dai, buon proseguo di serata, buon tutto, e ce la riascoltiamo alle prossimine, se coincide. Ok, ciao anche Antonello, se è rientrato, se no, pazienza. Ce la riascoltiamo per le prossimine. Ehi a Franco, di nuovo, super salutato, quando voi siamo qua, quando ci siamo, perché praticamente c'è un giorno magari di delirio dove entrano tutti e poi giorni e giorni di silenzio. Va bene, Antonello sei rientrato, dai così vado in bagno a farmi sta parte. Sono qua. Thank you. attenzione, fammi capire, ma è l'autoascolto o è altro? Allora, questo è l'effetto ecco, poi l'autoascolto è questo. Adesso ho eliminato, guarda un po'. Allora, nell'ultimo pezzo non fischia nulla. E alternata non saprei dirti perché c'è il volume un po' a filo, a puntina. Se non rimbomba, in questa stanza rimbomba un bel di notte. Ho capito. Adesso vediamo bene. Ho regolato le mic gain e non fischia più. Ecco, non ce l'è, l'ho eliminato, così. E con l'eco, così è senza. Ci dà lo scatto, sì. Okay, non si può capire la cazzo, è passata le cose. C'è la tapparica acceso, quindi ecco perché. Già va bene adesso, no? Sì, ma quello qual è? L'ala notata 7? Sì, per forza, se all'eco è quello. Avevi anche il bip tipo Colt prima. Mamma mia, la voce mi sta calando. Porca miseria. Ogni volta così. Sì, come tipo Colt, sì, esatto. Ce l'ha inserito sia all'eco. Ti dicevo Antonio, comunque questo apparato sì, era tipo il multimode, no? La scheda, quella roba lì simile. Però in effetti è strano che con 5 watt, che è proprio quell'apparato che l'ho cercato sui cataloghi vecchi di Cicco Elettronica, no? In origine aveva 5,5, 5,5 in AM, 11, 12 SSB eccetera, però è un po' troppo, si abbassa la modulazione. Infatti noi non sappiamo se il proprietario o i proprietari di prima abbiano, oltre alla modifica del bip, abbiano cambiato finali, messi in originali. Ti dirò, non so nemmeno che finale monta questo apparato. Potrebbero essere i 1969, all'epoca erano tutti così, non saprei. Comunque te l'ho detto, con questo intrallazzo posso avere 9 watt con modulazione buona, quindi lo sfrutto così, dai. Va bene, Antonio, io ti lascio, ci sentiamo quando capita, ok? Poi per domani al limite ti faccio sapere. D'accordo, Franco, vabbè, io mi sono spostato per cercare come diavolo è questa cosa qua. Franco, cosa ha chiuso o c'è ancora? Guarda, sto facendo roba, sto saldando, se lo chiami al limite, se all'ascolto lo saluti, ok? E ci sentiamo Antonio, ciao anche agli ascoltoni, ciao a tutti. Eia, ciao Fra, ci sentiamo se ci sei ancora, stavi bene, con quelli tipo tutto, ho cercato di sollevare adesso, quindi questo non posso fare, stavi bene, alle prossime, ma allora va, fate la barba eccetera eccetera, poi al limite già, tanto domani vanno alle MD, quindi già ci vedremo senz'altro. Devo andare a prendere i budini, yogurt, tutta quella roba lì da una volta. Ma vediamo, dai, perché anche devo andare da Ruspin per la sabbia di gatti, quella rossa, ce l'hanno solo lì quella che interessa a me. Va bene, nel caso ti avviso, dai. Ok, ciao Antone, buonanotte, buon tutto, ciao. Ciao, buonanotte, caffè, e tutti quelli che stanno ascoltando.